donando tutto quello che ho, il mio corpo, il mio cuore, la mia anima. Spero solo che tu ti prenderai cura di me e che la nostra storia non è una storia tanto come per giocare, una di quelle storie che poi vanno a finire male, perché mi sto fidando di te, non mi deluderei. Mentre parli, perché la tua voce è come una canzone che non voglio smettere mai di ascoltare, perché con te sto bene e tu non ti rendi conto dell'effetto che mi fai, quando so con te sto bene tu mi fai vivere emozioni uniche. Ogni giorno che passa sempre di più, mi sto fidando di te.